Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Il più grande desiderio di un cacciatore di risorse geotermiche è fare un bel buco nell'acqua. Acqua calda, la più calda possibile, da cui estrarre energia per produrre elettricità e calore, come avviene all'Ardarello in Toscana. Non sempre però va bene. A volte scavando il calore si trova, magari anche a profondità non troppo elevate. Quello che manca è appunto il fluido caldo. Come fare allora a estrarre questo calore prezioso? Ce lo spiega la nostra Maria Luisa Carapezza, ricercatore dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che è tornata a trovarci ancora una volta. Buonasera Carapezza. Buonasera a voi e grazie di questo nuovo invito. Allora, che cosa si può fare in questi casi? Abbiamo il calore ma non abbiamo l'acqua. Allora, questo è un problema frequente, cioè durante l'esplorazione geotermica i pozzi geotermici possono incontrare in profondità rocce calde impermeabili, cioè senza fluidi, quindi senza la risorsa, e quindi secche. Quindi il calore non è utilizzabile a fini energetici diretti, a meno di non farvi circolare acqua, che quindi viene immessa dalla superficie in un circuito idraulico che viene creato artificialmente, fratturando le rocce calde. E come si fa a fratturarle? Si fa un pozzo e si procede a fratturare queste rocce con la pressione idraulica, di solito con un circuito idraulico. Questa, diciamo, fratturazione è una fratturazione ovviamente controllata, di solito si sceglie di effettuare queste operazioni in rocce isotrope, cioè che hanno le stesse caratteristiche, e questo consente che l'acqua inettata si mantenga all'interno di questo pacco di rocce fratturate, si riscalda e il vapore viene riestratto da un secondo pozzo. Quindi rispetto al sistema tradizionale c'è bisogno di un secondo pozzo, perché da un lato quindi viene iniettata l'acqua, raggiunge questo livello profondo che fratturiamo artificialmente, in cui però c'è la temperatura sufficiente a vaporizzarlo, e il vapore viene riemesso e quindi utilizzato direttamente, quindi per la produzione di energia elettrica. Ecco, di quali profondità e di quali temperature stiamo parlando, perché il tutto insomma sia interessante? Guardi, il progetto diciamo più avanzato attualmente in Europa è quello che sviluppato a Sulsufuret in Francia, che però diciamo noi non consideriamo estremamente interessante, perché lì parliamo di profondità elevate, 5.000 metri di questi pozzi, per trovare una temperatura di 200 gradi. E forse, come ho già detto in passato, ricordo che diciamo i costi di un pozzo crescono in modo esponenziale con la profondità, quindi 5.000 metri sono pozzi eccessivi. Forse non vale la pena, soprattutto per trovare 200 gradi, ecco, insomma. Direi, però diciamo ci hanno provato comunque sia lì che in Svizzera e in altri paesi. Quello che è veramente interessante invece è la situazione italiana, perché abbiamo già ricordato anche nelle altre puntate che il nostro è un territorio vocato, diciamo, a questo tipo di sfruttamento geotermico, con temperature molto interessanti sia nel caso in cui c'è la risorsa o meno. Cioè noi troviamo temperature di 200 gradi a circa 2000 metri, quindi diciamo mediamente nelle zone chiaramente interessanti. Quali sono, ecco, gli vantaggi e gli svantaggi di questa metodologia rispetto al cosiddetto geotermico ad alta entalpia, anche se di questo stiamo parlando, in cui però si trova già il fluido? Sì, beh, guardi, è chiaro che il geotermico diretto tipo quello di Ardarello offre le condizioni migliori, però diciamo lo svantaggio è che qui bisogna perforare due pozzi e quindi diciamo si raddoppia il costo di perforazione. Però il vantaggio è che in questo caso si inietta acqua che non è un fluido profondo, ma è un fluido immesso dall'esterno e quindi non è ricco di quei sali, di quella componente profonda tipo l'idrogeno solforato, il gas che puzza di uova marce, sì, diciamo. È acqua pura, quindi quello che si viene riestratto è vapore puro, quindi diciamo tanto non si avranno emissioni nocive o fastidiose in atmosfera, ma anche i costi un po' si abbattono da questo punto di vista, perché non devono essere abbattute queste sostanze nocive, in più anche la manutenzione chiaramente è ridotta. E perché è meno corrosivo, è quello meno che corrosivo, si utilizza e così via. Senza dubbio. Ecco, è vero che può accadere quando si effettua questa sorta di fratturazione di generare dei piccoli sismi o qualcosa del genere? Mi pare che sia successo in Svizzera appunto. Sì, diciamo può accadere perché c'è una sismicità indotta, diciamo creata da questa fratturazione, però è una microsismicità e diciamo è la stessa che si trova ovunque dove ci sia percolazione di acqua nella zona. Praticamente parliamo di scosse che misurano giusto gli strumenti, insomma, sì, non è qualcosa sì, si riesce a percepire. Ripeto, noi la definiamo microsismicità. D'accordo. Ecco, in Italia ci sono molte zone quindi in cui si potrebbe fare un'operazione del genere. È capitato spesso di scavare pozzi, di trovare temperature alte, ma poi di non trovare il fluido. Sì, per esempio, la zona nel Lazio, la zona della caldera di Latero, quindi in provincia di Viterbo, dove ci sono dei pozzi non produttivi, hanno incontrato 200 gradi a 2000 metri e 300 gradi a 2500 metri di profondità. E la stessa cosa troviamo a Bracciano, a Bolsena, a Vico. Queste sono zone abbastanza ampie, molto ampie nel Lazio, che potrebbero produrre anche centinaia di megawatt. Centinaia di megawatt, quindi potenze molto importanti, potenze insomma, importanti, equivalenti a una centrale a gas. Sì, la stessa cosa lei consideri ai Campi Flegrei, addirittura con temperature fino a 300 gradi e profondità anche a 1500 metri. E ancora più interessante, diciamo, da un certo punto di vista, è l'isola di Vulcano, dove si sono trovate temperature di 400 gradi a 3000 metri di profondità. Grazie Maria Luisa Carapezza. Grazie a voi. Grazie anche agli ascoltatori per averci seguito fin qui. L'appuntamento è per domani. Parleremo di gassificazione della biomassa. Buona serata.